dice cuore denari in brasiliano, in brasileiro? Coração e dinheiro. Bellissimo. Buongiorno Nicoletta e buongiorno Deborah e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Coração e Dinheiro. Coração e Dinheiro. Facciamo rete, stiamo bene insieme. Coração e Dinheiro. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sento il mare dentro una conchiglia. Estate, l'eternità. Ci sentiamo in estate, è vero, ma è ancora, è solo il 5 giugno per il calendario, è ancora primavera. Un numero, il 5, una stagione che ci fanno pensare ancora alla dichiarazione dei redditi che molti probabilmente stanno ultimando. Partiamo da qui stamattina, Cuore Denari, 5 come 5 per 1000. Ci concentreremo su questo argomento con il nostro ospite di denari, il dottor Giampaolo Concari, commercialista esperto di questioni fiscali del mondo no profit e animatore del sito Qui Non Profit, che è già collegato con noi e che voglio subito salutare. Buongiorno. Buongiorno a voi tutti. È pronto? Prontissimo. Allora, torneremo a spiegare ai nostri ascoltatori come funziona, sia per i contribuenti che devono scegliere a chi destinarlo, sia per chi si impegna magari in un'associazione o in un ente che avrebbe bisogno di fondi, ma non sa magari come fare per candidarsi ad ottenere le donazioni del 5 per 1000. Quindi 800 24 00 24, chiamateci subito, altrimenti ci arrabbiamo. Sì, hai ragione, sei perfetta, io non ho fatto niente di giusto in 15 anni. Tu non mi stai ascoltando. Non ti va mai bene niente. Non si è mai detto che tu ascolti. Ho detto ti attacchi a ogni minima cosa. È la rabbia il tema della seconda parte di Cuore e Denari, la conosciamo tutti, è un'emozione primaria, non è né buona né cattiva, ma esiste e per questo dobbiamo imparare a farci conti. Inghiottirla fa male, gridarla anche, voi che fate? Intanto che ci pensate, prenotate il vostro intervento al nostro numero verde. È un compleanno al ribasso quello del 5 per 1000, che spegne la decima candelina ma si ritrova più povero di 500 milioni. La cifra totale versata dai contribuenti a partire dal 2006, devolvendo appunto il 5 per 1000 della propria IRPEF a enti che svolgono attività socialmente rilevanti nel mondo del no profit e della ricerca scientifica, supererebbe i 4 miliardi. Eppure solo 3,5 sono stati effettivamente incassati dalle organizzazioni. È il risultato dei tetti di spesa imposti al contributo negli anni scorsi dai vari governi, che per esigenze di bilancio hanno applicato, per così dire, dei tagli anche a queste somme. Nel 2013, ultimo anno per il quale sono disponibili i dati, hanno esercitato questa scelta oltre 17 milioni di contribuenti italiani, il 55% di coloro che devono versare l'IRPEF. In cima alle preferenze si trova sempre, saldamente, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Eppure, ogni 100 euro assegnati, i beneficiari ne incassano solo 80. Da quest'anno il tetto massimo è stato di nuovo alzato e si potranno ripartire, in proporzione alle preferenze dei contribuenti, fino a 500 milioni. Se chi sta compilando in questi giorni la sua dichiarazione sarà attento e generoso, anche questo limite potrebbe comunque essere superato. E abbiamo sentito in questa scheda un breve bilancio di questi 10 anni di 5 per 1000, una sintesi degli approfondimenti molto interessanti pubblicati a questo proposito dalla nostra collega Valentina Melis sul Sole 24 Ore nei giorni scorsi, e quindi invitiamo anche voi a leggere i suoi articoli che condividiamo anche sui social di Cuore Denari. Intanto noi di 5 per 1000 torniamo a parlare con il nostro ospite che vi ho già presentato ma che torno a salutare, il dottor Giampaolo Concari, commercialista esperto di questioni fiscali del mondo no profit e animatore del sito Qui Non Profit. Eccoci di nuovo, buongiorno Dottore. Buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Allora, intanto voglio chiedere ai nostri ascoltatori di iniziare a chiamare il nostro numero verde. Vogliamo parlarne anche con voi. A che punto siete con la dichiarazione dei redditi? Avete già deciso se destinare il 5 per 1000 e a chi versare questa somma? In base a che cosa avete scelto? Vogliamo rivolgerci però oggi anche a chi ha messo su una piccola associazione o lavora in un ente o in un'organizzazione che vive anche grazie al 5 per 1000 o da questa forma di finanziamento potrebbe ottenere un grande aiuto. Avete ricevuto già qualcosa? Quanto è stato importante? Oppure sapete come ci si iscrive alle liste che permettono agli enti di accedere a queste donazioni? Il nostro numero verde 800 24 00 24, ma potete mandarci naturalmente i messaggi al 349 238 6666 oppure seguiteci sulla pagina di Cuore Denari e sui nostri social. Dottore, partiamo dall'inizio e torniamo a spiegare per bene che cos'è il 5 per 1000 e soprattutto quali sono le differenze con i cugini, chiamiamoli così, 8 per 1000, 2 per 1000. Allora, innanzitutto ancora buongiorno, voglio fare una piccola così, voglio far sorridere voi tutti perché la questione dell'animatore del sito qui non profit è divertente, a me fa veramente sorridere. Sembra sempre uno che prepara aperitivi o cose del genere, la movida, invece sono pagine noiosissime, ma comunque va bene questa etichetta perché è anche difficile trovarne un'altra, molto bene. Se ne preferisci un'altra, noi siamo contenti. Era, però... così, era soltanto per far sorridere, perché l'animatore appunto uno pensa sempre a queste cose un po' più ludiche, invece purtroppo sono cose un po' noiose. Allora, vediamo un pochino. Il 5 per 1000 sì, è una quota dell'IRPEF, quindi l'imposta sui redditi delle persone fisiche, che viene devoluta al mondo del non profit. Sì. Esattamente, abbiamo come destinatari possibili, diciamo così, il volontariato, poi in questa edizione ci sono varie sottocategorie, la ricerca scientifica, ricerca sanitaria, finanziamento per... le attività di tutela della promozione dei beni culturali, sì. Sostegno delle attività sociali nei comuni di residenza e sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche. Benissimo. Okay. All'interno di queste categorie poi ovviamente ci sono i vari enti che sono destinatari, possibili destinatari e che si devono scegliere su una lista che viene pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. Le differenze sostanziali rispetto all'8 per 1000 sono appunto quello del tetto, sì. Mentre, anzi, prima ancora del tetto parliamo della devoluzione. Sì, perché l'8 per 1000 va. L'8 per 1000, anche se il contribuente non scrive nessuna destinazione specifica, non firma nell'apposita casella, comunque l'8 per 1000 viene prelevato e distribuito ai vari soggetti destinatari. E poi c'è la questione del tetto, che appunto vale per gli enti non profit, ma non vale invece per le confessioni religiose e per le devoluzioni allo Stato. Quindi è una grossa differenza, perché certo. Se io metto un tetto, chiaramente non è più il 5 per 1000, ma se i contribuenti dello Stato sono il numero superiore, così come si è dimostrato dalle verifiche che sono state effettuate in questi anni, è chiaro che non è più il 5 per 1000, ma diventa un 4 per 1000 o un 3, qualcosa. Non è più il 5 per 1000. Non lo è più. Ma senta, se devolvo il 5 per 1000, posso fare una scelta generica e devolvere la somma ad un settore oppure una scelta mirata ad una precisa organizzazione, giusto? Posso fare entrambe le cose. Sì, quindi, ma mi spiega eventualmente la differenza tra queste due scelte? Certamente. Allora, mentre se io faccio la semplice firma nel riquadro del 5 per 1000, quindi vado a individuare, voglio destinare il 5 per 1000 al finanziamento della ricerca sanitaria, sì. Allora faccio la firma e il mio 5 per 1000 andrà indistintamente a tutti gli enti della ricerca sanitaria iscritti in quella categoria, in quella lista, in quella categoria. E il 5 per 1000 sarà ripartito in base alle preferenze espresse da altri contribuenti. Sì. Quindi io dono, devolvo il mio 5 per 1000 alla categoria, ma poi viene ridistribuito in base alle preferenze espresse da altri. Quindi decidono un po' gli altri, le preferenze esatto. degli altri. Esatto. Se invece lo si vuole destinare ad uno specifico ente? Se invece lo voglio destinare ad uno specifico ente, allora firma nel riquadro e codice e indicazione del codice fiscale dell'ente destinatario. Quindi si può fare una devoluzione generica oppure mirata? Esattamente. Ma come facciamo? Ricordiamo, come lei l'ha già in parte detto dell'Agenzia delle Entrate, ma come facciamo a sapere se un'associazione può essere destinataria del 5 per 1000? L'Agenzia delle Entrate pubblica, no, l'elenco? L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una prima lista, diciamo così, un po' bruta lo scorso 14 maggio, poi un po' più raffinata il 25 maggio. Sì. E all'interno del sito dell'Agenzia delle Entrate c'è anche un motore di ricerca per verificare se un determinato ente è iscritto oppure no e in quale categoria. Allora, abbiamo naturalmente i nostri ascoltatori che abbiamo invitato ad intervenire chiamando il nostro numero verde 800 24 00 24, scrivendoci al 349 238 6666. Inauguriamo con Lorenzo che ci chiama da Torino. Buongiorno Lorenzo, benvenuto. Buongiorno, sono un ammiratore della vostra radio che purtroppo a casa non riesco a sentire. Mannaggia. Per cui sono obbligato a viaggiare in macchina. Veramente? Per sentirvi, sì, e sento la vostra trasmissione dalle 11 a mezzogiorno e sono un grande ammiratore di Sebastiano Barisoni alla sera. Perfetto, però lei potrebbe, tanto adesso che va in giro a sentirci tra le 11 e mezzogiorno, si ricordi che Cuore Denari dura fino alle 12.30, Lorenzo. Ma io a mezzogiorno devo andare in ufficio. Ah, quindi... va bene così, è assenza giustificata. Anche, Lorenzo. Per la verità anche Pierluigi Pardo finisce alle 3:30, ma io alle 3 devo lasciarlo, va perché bene. Altrimenti consumo troppa benzina. Ha ragione, va bene, Lorenzo. Io oggi telefono per il 5 per 1000, ma avrei potuto telefonare anche per la rabbia, di rabbia. Sì, parliamo di rabbia, ecco. Lorenzo, ma... Ecco, io il 5 per 1000 non lo do a nessuno. Sì, perché Lorenzo? Perché secondo me il no profit è una truffa. In che senso? Nel senso che ho già sentito, ma ho anche constatato di persona, sì? Che nel mondo del no profit, dove ci sono 400.000 aziende, forse 10, 15, mettiamo 20.000 sono no profit onlus. Le altre sono aziende che sotto il nome Onlus, sì, sti evadendo le tasse. Forse questo sarebbe un argomento da trattare per una giornata intera. Però io mi limito a dire questo, io il 5 per 1000 non lo do più a nessuno. Non si fida, ma lei l'ha dato qualche volta, Lorenzo? I primi due anni. Ecco, poi ho cominciato a capire un tantino qualcosa e mi spiace perché secondo me è una bella cosa. Nel panorama delle Onlus ce ne sono veramente meritevoli. Anche nella zona dove abito io. Insomma, Lorenzo, come si ricorda, ogni tanto si entrava in quei negozi, una volta si diceva per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno. Quindi lei, per la sua esperienza, che è stata un'esperienza un po' che evidentemente l'ha bruciata, ha deciso di non devolvere più il 5 per 1000. Io inviterei le vere Onlus a fare pulizia. Va bene, senta, Lorenzo, il tema che lei ci propone è molto interessante e mi piacerebbe sentire anche il parere naturalmente del dottor Concari. Dottor Concari, ma è possibile che ci siano anche enti, diciamo così, farlocchi, però lo strumento del 5 per 1000 è proprio uno strumento di democrazia veramente importante. E non è una truffa in realtà, dal momento che uno può decidere di finanziare anche l'associazione che ha sotto casa e che conosce benissimo e sa benissimo che cosa fa e di chi lana va vestita. Non è, a mio modo di vedere, non è corretto dire non lo do a nessuno perché appunto qualcuno ha fatto il furbo. Io invece sono molto contento di poter devolvere il 5 per 1000 verso associazioni, a favore di associazioni, di enti che mi dimostrano e me lo fanno vedere quello, ecco, che fanno. Forse Lorenzo ci offre anche un altro spunto, dottor Concari, sì. E cioè io voglio dare il 5 per 1000 ad un ente, ad un'associazione che quindi voglio aiutare, ma vorrei avere delle garanzie, no? Magari quello che pensa Lorenzo è abbastanza, è un pensiero che trattiene alcuni da, no? Dare il 5, devolvere il 5 per 1000. Come posso avere le garanzie? Lei mi dice vado dalla piccola associazione che ho sotto casa, ma ci sono degli strumenti che mi permettono di capire se quell'associazione lavora per bene? Beh, intanto gli enti destinatari del 5 per 1000 sono soggetti ad un controllo dell'agenzia delle entrate, ma del Ministero del Welfare. Sì. Quindi devono trasmettere ogni anno la rendicontazione dei fondi spesi, ci sono delle linee guida da rispettare e personalmente gli enti che seguo così dimostrano, mandano veramente dei pacconi di carta al Ministero per dire noi abbiamo speso in questo modo. Quindi so anche che il Ministero recupera i 5 per 1000 spesi male o non rendicontati o che sono andati o che si è accertato per esempio che erano destinati ad enti non meritevoli. Quindi c'è un'attività di controllo che poi sia efficace, che comprenda il 100% dei mascalzoni. Questa è un'altra storia, non si può generalizzare, ma dottor Concari, ma io se decido di non esercitare la scelta del 5 per 1000, quella somma non resta a me. A chi va? Va all'erario normalmente come l'IRPEF, non succede proprio niente. E ricordiamo anche, lei ci ha aiutato a fare una distinzione tra 2 per 1000, 8 per 1000, 5 per 1000. Insomma, tutti questi per 1000 non si escludono tra loro, dico bene? No, sono concorrenti, non proprio alternativi, cioè non è che se io attribuisco l'8 per 1000 allora non posso attribuire il 5 o il 2 o che altro. Io posso fare tutte e tre le attribuzioni, quindi posso dire che voglio dare l'8 per 1000 per dire all'Unione Buddisti Italiana piuttosto che alla Chiesa Cattolica o sì. Per esempio personalmente lo dico non lo darei mai allo Stato per dire perché è un pessimo gestore dell'8 per 1000. In teoria l'8 per 1000 dovrebbe andare a favore di iniziative di solidarietà, molto spesso viene utilizzato per coprire buchi di bilancio e allora preferisco darlo a chi invece fa iniziative di solidarietà. E questo è uno strumento di democrazia, se certo. Permettete. Quindi il 5 per 1000 è quindi al concorrente rispetto all'8 e così anche il 2. Quindi io posso poi, fatto la prima attribuzione dell'8 per 1000, posso andare a scegliere il 5 per 1000, quindi posso attribuire il 5 per 1000 a chi decido di sostenere e poi se mi piace anche la politica come gestita, faccio anche la devoluzione del 2 per 1000. È chiaro. Andiamo a Gianni che ci chiama da Milano e poi Paola da Forlì. Gianni, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie. Ci racconti, Gianni? Niente, la mia domanda era questa. Io faccio parte di una banda musicale sì. Della provincia di Milano. Come vi chiamate? Facciamo... Avete un nome, no? Sì. Sì, siamo la banda 4 giugno di Magenta, 4 giugno 1859, intitolata alla battaglia di Magenta. Proprio qua vicino a Milano? Sì, infatti, se posso farmi pubblicità, questa sera facciamo il nostro concerto. Ma certo, ma dai, mi piace, grazie, sì, volentieri. Allora Gianni, quindi la banda musicale di Magenta... Noi facciamo parte, siamo questa banda e facciamo parte di una cooperativa che raccoglie diciamo molte bande di tutta Italia. Sì. E niente, la domanda era questa: è vero che non possiamo accedere alla richiesta del 5 per 1000 o dell'8 per 1000 proprio per questo motivo che facciamo parte di una cooperativa? Grazie Gianni per la domanda, dottor Concari. Allora, se si tratta di una cooperativa sociale che quindi è considerata onlus di diritto, le cooperative sociali sono previste dalla legge, un vuoto di memoria comunque. Va bene, meno male, capita anche a me, si accomodi nella compagnia, anche lei, fantastico, va bene? Ecco, le cooperative sociali che sono considerate onlus possono iscriversi agli elenchi del 5 per 1000. Al di fuori di questa situazione le questa banda potrebbe essere per esempio un'associazione di promozione sociale, se rientrasse nelle previsioni della legge 383 del 2000, questa me la ricordavo meglio. Bravo, vede? Il neurone unico funziona. Sta sbattendo un po' tra le pareti, ma ce la fa. Gianni, ancora in linea con noi? Sì, sono qua. Ha recuperato delle informazioni utili? Questo no, però mi viene un'altra domanda, ma a questo punto... Ma come questo no? Le ha detto mille cose. Sì, no, mi devo informare su che tipo di cooperativa bene... Perché le mancano delle informazioni sue. Sì, mie, certamente, certamente mie. Ma eventualmente il 5 per 1000 lo prenderebbe la cooperativa oppure la banda che le fa richiesta? Ovviamente lo prende chi fa la domanda di accesso alla lista, cioè se è la cooperativa sociale, posto che fosse una cooperativa di questo tipo, però attenzione perché le cooperative sociali devono avere all'interno cittadini svantaggiati o cose simili. Insomma, ecco, ci sono allora delle caratteristiche, esatto, requisiti particolari. Esattamente, altrimenti sono le cooperative normali, cioè la cooperativa di produzione e lavoro, per esempio, non può entrare nel novero del 5 per 1000, chiaramente, perché è un altro ente, non si occupa di questioni socialmente rilevanti. È chiaro. Eventualmente Gianni, se vuole scriverci, naturalmente dopo il concerto di stasera, perché sarà più rilassato, cuoredenari@radio24.it. Noi adesso andiamo a sentire le borse. Cuore e denari. Ultimi minuti per parlare del 5 per 1000, prima di arrabbiarci, che come abbiamo detto quest'anno spegne la decima candelina. Stiamo rispondendo alle vostre telefonate sia dal punto di vista dei contribuenti che scelgono di destinarlo, sia dal punto di vista di enti e associazioni interessate a ricevere questi contributi. Con noi c'è sempre Giampaolo Concari, commercialista esperto di questioni fiscali del mondo non profit. La dico quella parola o no, dottor Concari? Sì, la dico. Animatore del sito Qui non profit.it. Allora, dottor Concari, Gianni ci ha portato un po' dall'altra parte, no? E ci ha aiutato a metterci un po' nei panni di un'associazione che vorrebbe beneficiare del 5 per 1000. Non tutti possono essere inserite naturalmente in questa lista. Ci aiuta un po' a fare una specie di specchietto? Quali sono i requisiti, che così li riassumiamo e li ripetiamo bene? Certo, allora... innanzitutto abbiamo detto che ci sono 6 settori, uno non ha bisogno di particolari iscrizioni perché è dentro nel gruppo di prima mano, perché riguarda i comuni di residenza, quindi i comuni sono comunque inseriti di default in questo gruppo. Okay. Gli altri 5 sono quindi le ONLUS, quindi le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sì, le associazioni di promozione sociale che sono iscritte nei registri regionali, nazionali e provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano, e poi ci sono associazioni e fondazioni riconosciute, associazioni riconosciute e fondazioni che anche se non sono ONLUS però operano nei settori specifici previsti dalla legge sulle ONLUS, quindi svolgono attività di elevato impatto sociale. Dopodiché ci sono il finanziamento della ricerca scientifica, ricerca sanitaria, tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e le associazioni sportive dilettantistiche. Quindi questi sono i settori. Per quanto riguarda le ONLUS, diciamo così, gli enti del volontariato, quelli che anche impropriamente enti del volontariato, e per le associazioni sportive dilettantistiche, questi enti devono presentare in modo telematico, quindi utilizzando il canale Entratel o Fisco Online, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, la loro candidatura per entrare appunto nella lista dei possibili destinatari. L'Agenzia delle Entrate poi prende un grosso setaccio, fa un uno scuotimento dei loro, del server, e vengono giù poi i nomi, le denominazioni degli enti che vanno appunto inseriti nella lista. Voglio... Ci sono dei tempi, sì. Mi scusi. No, mi dica lei i tempi. Ci sono dei tempi poi, allora intanto per quest'anno i giochi si sono quasi chiusi il 7 di maggio scorso, perché poi il 14 di maggio c'è stato il primo scottimento dei server e una prima lista, diciamo così, brutta, e poi con la correzione eventualmente necessaria di alcuni dati, la lista definitiva è stata pubblicata il 25 di maggio. È possibile iscriversi tardivamente, ma bisogna pagare dazio, perché si pagano 258 euro e non sempre il gioco vale la candela, dal momento che se io vado ad un CAF a farmi compilare il modello 730, per esempio, è facile che il CAF dica: no, ma questo ente non c'è, questo codice fiscale non c'è perché non è inserito nella lista, e anche se questo si iscrive entro il 30 di settembre, pagherà la sanzione, ma probabilmente non percepirà lo stesso numero di preferenze. Insomma, i giochi sono già fatti, in sostanza. Esatto. Per quest'anno, quindi sì. Si aspetta al prossimo. Esatto. Andiamo a Paola, che ci chiama da Forlì. Sentiamo Buongiorno Paola e benvenuta. Buongiorno. Intanto grazie per la compagnia, sempre così interessante. Grazie Paola, lei è carina. Grazie, ci fa molto piacere. Volevo chiedere al dottore... Sì. Cioè, io il 5 per 1000 lo do sempre così genericamente alla ricerca scientifica. E forse parzialmente mi ha risposto il dottore. Sì, perché lei lo dà e poi il dottor Concari, praticamente quello che Paola ha destinato segue un po' le scelte che hanno fatto gli altri, no? Che hanno fatto gli altri, esattamente. Ma Paola scelga allora. Ma molte volte è proprio una questione anche di indolenza, perché magari non ho il numero del codice fiscale. È vero, siamo un po' pigri. Il numero così. Qualche volta l'ho data all'AIL, ma per il resto lo do sempre alla ricerca scientifica così. Pensavo fra di me, probabilmente ci sono dei progetti, vengono premiati progetti migliori. Paola, però se lei non sceglie è inevitabile, vero dottor Concari? O Paola sceglie oppure il suo 5 per 1000 segue un po' il fiume degli altri. Esatto, ecco. Esattamente. Di lì non si esce, Paola. No, è quello. D'accordo, mille grazie. Grazie a lei Paola, buona giornata. Anche a voi, buongiorno. Buongiorno. Grazie dottor Concari per essere stato con noi. Lei si arrabbia ogni tanto? Ma sì, ogni tanto mi arrabbio anch'io, sì. Ma perde spero di non aver fatto arrabbiare lei invece con le mie battute un po' stupide. Assolutamente, magari. Sono stata molto bene, mi sono divertita. E poi ho un compagno nel grande gruppo di chi si dimentica, arriva la cosa sulla punta della lingua, e quindi esatto. Grande solidarietà. Grazie dottor Concari, alla prossima e a prestissimo. Benissimo, grazie a voi tutti e arrivederci. Prima di arrabbiarci, noi abbiamo parlato di trasparenza nel mondo del non profit, e non possiamo non citare il libro L'industria della carità della nostra collega Valentina Furlanetto, pubblicato da Chiare Lettere. Valentina è andata proprio ad approfondire come avviene la gestione dei soldi in queste grandi organizzazioni. Un libro naturalmente che vi consigliamo e vi caldeggiamo. Beh, a chi non è capitato di arrabbiarsi, di perdere, come si dice, le staffe, può succedere, perché la rabbia quando sale straripa proprio come un fiume in piena e rompe gli argini, no? Oppure si accende come un fuoco, brucia tutto quello che trova attorno. O non so, ancora, provate voi a visualizzare la rabbia e provate a descriverla, magari con un'immagine. Forse anche questo potrebbe aiutarci a viverla e a gestirla meglio, a provarla senza arrabbiarci. Che dite, ci proviamo? Aspetto le vostre chiamate, le vostre domande, i vostri consigli. Intanto ditemi che cosa vi fa arrabbiare e come vi arrabbiate. Vi riconoscete nella nostra Vox Populi, il nostro mini sondaggio? Andiamo a sentire. Arrabbiare, come si manifesta la mia rabbia? Perché mi viene da piangere, quindi questa mia reazione mi fa proprio arrabbiare. Molte volte, quasi tutti i giorni. Mi fa arrabbiare la gente ignorante quando mi pestano i piedi. Sì, spesso. Si manifesta gridando e innervosendomi. Il traffico, in prima linea. E le ingiustizie. L'arroganza, la prepotenza. Queste sono le cose che secondo me mi fanno più arrabbiare. Reprimerla o inghiottirla ci fa stare male, ma se la buttiamo fuori spesso ci troviamo a fare i conti con sensi di colpa e di solito ci si pente, ci si vergogna anche un po'. A dire la verità, esplodere non è poi così terribile, ma comunque di solito, lo sappiamo per esperienza diretta, è inutile, non risolve. Si ripresenterà un'altra occasione, ci arrabbieremo di nuovo e forse ancora per lo stesso motivo. Che dite? Parliamone oggi insieme con due esperti. Abbiamo il piacere di avere in linea con noi il professor Claudio Mencà, direttore del Dipartimento di Neuroscienze al Bene Fratelli di Milano. Professore, buongiorno, bentornato. Buongiorno a voi, ben trovata. E la dottoressa Stefania Doria, medico, psichiatra, insegnante di yoga e meditazione. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Era un po' che mancava. Sì, grazie. Professor Mencacci, la rabbia, diciamolo subito, ha un vissuto negativo, ci insegnano a non arrabbiarci, a tenere la rabbia sotto controllo, a non esprimerla perché non sta bene, non si fa. In realtà la rabbia è un'emozione come le altre, la provano anche i bambini, no? Molto piccoli, e non è di per sé né buona né cattiva, esiste e ha una sua funzione evidentemente. Ma è proprio questo, è un'emozione comune, un'emozione che condividiamo fin dalla nascita, che esprime in questa maniera quelle due parti che sono innate in ciascuno, che sono o l'attacco o la fuga. Questo è un sistema che ha consentito alla nostra specie di arrivare fino ad oggi, e la rabbia fa parte di questa emozione. Ma l'abbiamo sentita nel sondaggio, viene da tante parti, viene verso se stessi, verso gli altri, verso i propri comportamenti, verso le ingiustizie. Difatti è un qualcosa, questa condizione di emotività, che fondamentalmente però ci aiuta a comprendere una cosa, che se la rabbia ci sommerge, se la rabbia invade completamente il nostro campo e la nostra coscienza, non otteniamo i risultati che vogliamo. E quindi dobbiamo dire che la rabbia, se ben direzionata, se ben contenuta, ci può aiutare molto nella vita, perché ci consente di raggiungere degli obiettivi. E mentre la rabbia, che ci serve solamente per nascondere o per non sentire il dolore, e che invece ci invade, ci pervade, come ho detto prima, invase come un fiammifero e così via, bene, quella è un qualcosa che aumenta anche il nostro senso di grande impotenza. 800 24 00 24, iscrivetevi in diretta a questo mini corso di gestione della rabbia. Cuore e denari. La mia non aver coraggio. Torniamo a parlare di rabbia. Diteci che cosa vi fa arrabbiare, come vi arrabbiate e se nel tempo il vostro rapporto con questa emozione è cambiato. Avete imparato qualcosa dalla vostra rabbia? 800 24 00 24, i messaggi al 349 238 6666. Dottoressa Doria, la rabbia viene raffigurata con una figura di donna, non certo perché le donne si arrabbiano di più, forse però questa emozione fa differenze di genere. Allora, l'emozione in sé per sé no, cioè si arrabbiano maschi e femmine, certo. Quello che fa la differenza di genere è nella modalità magari di espressione della rabbia. Come abbiamo sentito dal sondaggio, magari la donna tende a, di più al pianto, che può rappresentare uno sfogo, mentre l'uomo tende più ad arrabbiarsi, a urlare, che anche questo può rappresentare uno sfogo. Però è importante, no? Non è tanto lo sfogare la rabbia, perché magari poi si sta bene per mezz'ora, ma poi ritorna quello che ha determinato la rabbia. Quindi importantissimo è riuscire a canalizzare la rabbia. La rabbia non è altro che un'energia psichica, no? Che scatta nel momento in cui qualche cosa non funziona secondo il nostro schema. Per cui canalizzandola noi riusciremo anche ad arrivare a modificare quello schema che ci ha fatto arrabbiare. Quindi l'importanza è la canalizzazione della rabbia, di questa energia psichica. Non è facile però, da che cosa si comincia? Assolutamente no, non è facile. Allora, fondamentale è conoscere il proprio corpo. La rabbia è un'emozione importantissima, come diceva prima il professor Mancacci. La rabbia è la via maestra proprio verso l'asserzione di sé, verso il più profondo sviluppo psicologico e il benessere emotivo. Quindi è normale arrabbiarsi, è umano ed è reale. Importante canalizzarla. Allora come? Bisogna riconoscere quella situazione che poi determina in noi la rabbia, che reazioni ha sul nostro corpo. Quindi importante è sapere cosa dice anche il nostro corpo di fronte a certe situazioni. Se comincio a sentire che sudo, che mi batte il cuore, che mi sale una situazione di nervoso, vuol dire che sta capitando qualche cosa. A quel punto l'analisi è: ok, cosa sta succedendo? Da lì capire cosa mi ha portato a questa modifica del mio corpo e canalizzare con il pensiero, dire ok, è successo questo, quindi cosa posso fare per modificare. Non è una cosa immediata e non avviene subito, assolutamente, ma questo avviene attraverso un allenamento di conoscenza e consapevolezza di sé. Quando ci arrabbiamo, infatti, qualcosa cambia dentro di noi, tanto che ci sono tanti modi di dire comunemente usati che fanno proprio riferimento a quei cambiamenti che avvertiamo quando proviamo rabbia. Mi è salito il sangue alla testa, sono rosso di rabbia, mi mangio il fegato, i nervi tesi, non ci ho più visto. Professor Mancacci, la sentiamo nel cuore, parte dal cervello, ma l'avvertiamo, come ha ben sottolineato la dottoressa Doria, nel nostro corpo. Fa uno strano percorso questa emozione. Beh, fa il percorso fondamentalmente del dolore, perché segue più o meno le stesse strade. È vero, nasce nel cervello, nasce in quest'area che dell'amigdala, dell'ipotalamo, di queste strutture cerebrali, e c'è anche un punto, che poi ne parleremo, che controlla tutta questa possibilità di esplosione, di questa disregolazione emotiva, che a sua volta poi comunica anche con la periferia, comunica con il cuore e comunica anche con l'intestino, che è il nostro secondo cervello. Quindi tutto si mette nel nostro organismo pronti per attaccare, quindi abbiamo tutta, durante l'episodio di rabbia, tutta la forza a nostra disposizione, tanto che la rabbia, poi se ne avremo modo di parlarne, produce, se non canalizzata, anche grossi danni fisici, può dare anche conseguenze particolarmente gravi, perché diventa una marea che non viene canalizzata e quindi diventa assolutamente distruttiva per il nostro organismo. Quindi la rabbia ha una base biologica, ha dei canali di trasmissione con i vari neurotrasmettitori, è regolata, e per fortuna nella maturazione del nostro cervello abbiamo un punto che è nella nostra corteccia prefrontale, che controlla la nostra impulsività, che controlla la nostra irascibilità, irritabilità e quindi anche la rabbia e i nostri comportamenti, che possono essere poi a loro volta alterati da tante altre condizioni. Giustamente la dottoressa Doria diceva che gli uomini sono più violenti, che è una modalità di trasformazione della rabbia. I nostri ascoltatori ci stanno chiamando 800 24 00 24. Vi invito a raccontarci che cosa vi fa arrabbiare, ma anche come vivete questa rabbia, perché forse può dare delle indicazioni utili alla dottoressa Doria, al professor Mancacci, per aiutarci a fare quel passo, no? La dottoressa Doria parlava di canalizzazione della rabbia. Vi leggo alcuni messaggi. Io prendo la prima cosa che mi passa per le mani, la tiro con violenza dopo dove capita, poi mi passa e mi pento, perché spesso rompo qualcosa. Dottoressa Doria, che cosa le dice questo messaggio? Allora, questo messaggio mi dice che spesso la rabbia, come diceva il professor Mancacci, si trasforma immediatamente in impulsività. E questo è un danno per chi vive questa emozione in questo modo, come dice, perché poi subentra il senso di colpa. Certo. Allora, l'importanza, che dicevo, della consapevolezza, del sapersi distanziare dall'evento è fondamentale per questo aspetto, per evitare poi di conseguenza di avere sensi di colpa e quindi di finire in un turbinio di emozioni che ci distaccano volta per volta dalla situazione reale, dell'accadimento reale, e lo tendiamo a ingigantire e non risentirci mai adeguati poi nella soluzione. Quindi ritorno con l'importanza davvero della tranquillità, come dire, proprio mentale di fronte a certe situazioni che ci danno la rabbia, per riuscire a controllarla meglio. Domenico ci chiama da Milano al nostro numero verde, benvenuto. Vorrei poi parlare anche delle persone che vivono accanto a coniugi, colleghi, familiari che si accendono spesso, che hanno degli improvvisi sbotti di rabbia, che magari hanno notato un cambiamento nel loro carattere. Anche questo può essere un segno da non sottovalutare. Quindi se vivete accanto ad una persona che perde spesso le staffe e che non sapete più come prendere, chiamateci perché vi daremo dei consigli. Domenico, buongiorno da Milano. Sì, buongiorno a voi. Stavo ascoltando la trasmissione, allora mi è venuta in mente la mia esperienza passata, che appunto io ero una persona molto, molto istintiva, no? Quando qualcosa non andava come era in preventivo, succedeva di tutto, no? Perché sì, praticamente mi facevo. Allora, diciamo che io sono stato costretto ad intervenire mentalmente, leggendo alcuni libri così, che mi hanno insegnato alcune tecniche per gestire, dominare, controllare questo impulso che non porta niente di buono se incanalato male, perché comunque le reazioni naturali, perché sono istintive, sono umane, però comunque sia ti portano poi a fare degli errori, perché quando tu agisci in preda a tutta una serie di istinti legati a montare mentale, che tu parte dal cervello, il cervello. E certo. Quindi Domenico, lei ci racconta un'esperienza positiva, ci dimostra che si può lavorare su questa emozione, riconoscerla, prenderne consapevolezza, lavorare. Ve ne parleremo anche nella seconda parte, dopo il GR, sempre insieme al professor Mencacci e alla dottoressa Doria. Tra poco. Cuore e denari. Sì, pronto. Sì, pronto. Sì, e come va? Non bene. Sono molto irritato in proposito. Anzi, sono molto arrabbiato. Sì. Ma perché me lo racconti a me? Perché lo racconto a te? Tu non sei niente in proposito. Io non so di che stai parlando. Non ne sei niente, allora? Io non so di che stai parlando. Ok, va bene. Stavo solo cercando di dirti quello che sento. Sono irritato? Sono irritato e la mia è... E la mia è una rabbia repressa. Una rabbia repressa. Basta poco, a volte non ci si capisce, ci si arrabbia, si inizia ad alzare la voce ed è fatta. Ma perché ci arrabbiamo? È una difesa? Una reazione legittima a un ipotetico torto? Un modo per difendere il nostro spazio? Ci arrabbiamo quando ci sentiamo incompresi, fragili, inadeguati? Quando siamo delusi, forse da noi stessi? Ci sono fiumi di ricerche che hanno cercato di spiegare, al fine anche di differenziare la rabbia, e noi ne stiamo parlando con la dottoressa Doria e il professor Mencacci. Aspettiamo naturalmente le vostre telefonate all'800 24 00 24, le vostre storie. Diteci che rapporto avete con questa emozione, se la subite, se ne venite travolti, oppure avete imparato a conoscerle, quindi non vi fate mettere in scacco, l'accogliete senza farvi invadere. Arrivano intanto le chiamate, ma professor Mencacci, la rabbia ha tante facce, non sempre si manifesta in modo chiaro, evidente, a volte scorre proprio come un fiume sotterraneo, ma scava e logora e fa ammalare. Il dolore è molto, lei ha fatto una sorta di parallelo tra il dolore e la rabbia, è proprio come il dolore fa ammalare il cuore, la rabbia, è corretto? Proprio così, questa emozione così intensa, questa impulsività, questo discontrollo fondamentalmente causa una condizione di, non solo di stress, ma crea una condizione per le quali alcuni nostre aree del corpo si infiammano. Quello che si è visto è che aumentano i fattori infiammatori. E dove vanno a colpire? Vanno a colpire gli organi più sensibili, in primo luogo il cuore, cambiando il ritmo piuttosto che aumentando il rischio a sua volta di avere anche delle situazioni di tipo infartuale, così come aumentando la pressione arteriosa, e quindi a sua volta questa può creare la situazione di ictus cerebrali, di emorragie. E questo ci fa capire come, arrabbiandoci molto, ma soprattutto, come ha ben detto, facendosi possedere dalla rabbia, lasciando agli altri il grilletto per accendere la nostra rabbia, in realtà ci danneggiamo, e il rischio è anche di creare ammalarci. Ma di ammalarci anche molto gravemente. Persone che in preda alla rabbia sono morte di infarto del miocardio per emorragia cerebrale, ce ne sono, ed è uno considerato uno dei fattori di rischio maggiore, così come un'altra serie di patologie ad andamento più cronico, ma queste due acute sono proprio legate ad esempio al rialzo pressorio. Dottoressa Doria, noi viviamo sotto pressione, tesi, preoccupati, sempre chiamati a dimostrare, a provare qualche cosa, ogni giorno ci sono sfide da superare, conferme da dare. In questa condizione di allerta continua siamo più vulnerabili e inciampiamo nelle nostre emozioni e anche nella nostra rabbia. Si scatta per un non nulla e per un non nulla si trascende. C'è una relazione tra stress e rabbia? Sì, beh, la relazione è molto sono stressato e quindi mi arrabbio di più. Sì, ecco. Sono stressato, ma perché se sono stressato mi arrabbio di più? Perché lo stress va a logorare quello che noi diciamo, le nostre capacità di problem solving, cioè di risolvere i problemi. Per cui logorando quella capacità io sono più preda alla mia impulsività. E quindi lo stress ha una notevole azione sulla rabbia. Se invece io riesco a uscire da una situazione di stress e quindi essere automaticamente anche più tranquilla, io riesco anche a meditare, a pensare di più prima di dare una risposta. Per cui c'è una stretta relazione proprio fisiologica tra stress e rabbia. E noi spesso utilizziamo lo stress come giustificazione dei nostri, sì, delle nostre arrabbiature. Mm-hmm. Professor Mencacci, ma quando la rabbia diventa spia di un disturbo? Quali sono i cambiamenti nel rapporto con queste emozioni che vanno considerati un po' come campanelli d'allarme? Con la premessa che ci sono delle persone che fin dalla nascita e nell'infanzia che hanno un temperamento irritabile e irascibile, perché queste hanno anche una base genetica e biologica, in realtà noi vediamo che quando la persona diventa progressivamente sempre più irritabile, irascibile ed esplosiva nelle sue condizioni di manifestazione. E allora qui abbiamo la lunga serie di possibili condizioni che partono dalle più frequenti, che sono i disturbi del sonno, che rendono veramente le persone progressivamente sempre più irritabili e facile all'arrabbiatura, ai disturbi d'ansia, soprattutto quella cronica, ai disturbi depressivi, ma va fatto anche un accenno importante. Le persone tendono a trasformare la propria rabbia in esplosione anche quando assumono soprattutto alcol o anche ovviamente sostanze stupefacenti, perché tutto questo è come se sul fuoco venisse gettata benzina, e questo dobbiamo tenerlo presente, perché è il cambio del comportamento di un adolescente o anche di una persona adulta. Poi ci sono dei cambi in cui l'irritabilità aumenta, anche l'esplosività aumenta, ad esempio nelle condizioni di genere, che sono o di fronte alle persone che hanno una sindrome premestruale molto grave, quindi legata a variazioni ormonali, aumenta l'irritabilità, piuttosto che nel periodo del periclimaterio, anche lì legata ai cambiamenti ormonali. Ma queste sono condizioni fisiologiche, di cui però dobbiamo tenere conto. Certo è che se la persona serena e tranquilla inizia a essere esplosiva di rabbia, è chiaro che va approfondita e fatta un'indagine, perché qualcosa sta accadendo. E voglio ricordarvi che all'ansia e alla depressione, di cui la rabbia, quindi professor Mencacci, può essere un segnale, no? È dedicato il quinto della collana di 12 volumi a cura della Fondazione Veronesi, in edicola lunedì 8 giugno col Sole 24 Ore. È una guida per fare chiarezza, ma anche per rompere il silenzio che spesso ancora avvolge la depressione e per aiutare a coltivare un atteggiamento positivo. È vero che la vita è costellata di eventi che possono turbare la nostra condizione di benessere, ma noi siamo progettati per farvi fronte e riprenderci da questo colpo. C'è un capitolo, tra l'altro, della guida proprio dedicato alla capacità di rimanere e di stare in equilibrio, e poi consigli molto pratici e mirati per vincere lo stress, con approfondimenti sulle numerose strategie di rilassamento che possono aiutare a ridurre lo stress e quindi a ristabilire il nostro equilibrio psico-emotivo. Professor Mencacci, direi che ne abbiamo tutti bisogno. Ma è una bellissima iniziativa questa della Fondazione Veronesi, perché non solo getta luce ma dà delle indicazioni anche sugli stili di vita e quindi sulla possibilità di prevenire, di quanto è importante non solo imparare a gestire questa emozione ma soprattutto a saperla trasformare in una forza, perché la maturità è proprio nel saper riconoscere la vulnerabilità e trasformarla in una forza che ci aiuta ad andare avanti, ma soprattutto che ci aiuta a risolvere i problemi. La rabbia così non fa altro che crearne altri e ci fa sentire sempre più impotenti. 800 24 0024, spazio alle vostre telefonate. Ermanna dalla provincia di Verona, poi abbiamo Sara da Roma. Ermanna, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno grazie a lei per avermi dato la possibilità di chiedervi alcuni suggerimenti. Allora, io e mio marito siamo in perfetta armonia. Sino a 4 anni fa mio marito, tutti e due sani, sportivi, è successo con una piccola operazione al valgo di prendere una infezione in sala operatoria e da lì è precipitata la situazione. Sì. Tenga presente che mio marito adesso ha 82 anni, solo che queste esplosioni di rabbia sono non frequenti, frequentissime. Durante un normale dialogo, per una qualsiasi sciocchezza, lui esplode. Io vorrei capire che cosa succede, perché a volte non hanno assolutamente motivo queste esplosioni, Ermanna. No, nessun motivo. Proprio questo, perché siccome questo in pratica che sta succedendo è particolarmente aumentato nell'ultimo anno. Certo. Nonostante che lui si sia ripreso discretamente, perché ha una forza di carattere notevole, per cui battagliero e lui va sempre avanti, non lo ferma nessuno. E fra l'altro, proprio per questa sua capacità, noi abbiamo la possibilità ancora di muoversi, andare in giro, perché andiamo con il camper, facciamo viaggi e così via. Però lei ha notato nell'ultimo anno questo cambiamento significativo. Chi ci aiuta? Professor Mencacci, dottoressa Doria? Io la prima commento che farei è proprio legato, da un lato, a tutte le disabilità, quando soprattutto una persona così generano e facilitano un abbassamento del tono dell'umore e quindi un facilissimo senso di grande reattività che si trasforma facilmente in rabbia. E poi un'altra cosa che andrei a vedere è comunque se nel lungo percorso di cure che ha dovuto effettuare ci possono anche essere dei farmaci o delle condizioni che possono aumentare l'impulsività. Dobbiamo tenere presente che quello è il moto, è l'impulsività che poi si trasforma in rabbia. Voglio leggermi, me la sono appuntata, una frase di Thich Nhat Hanh, che è uno dei più autorevoli amati maestri buddisti del nostro tempo, Thai come lo chiamano, no, gli intimi. La tua rabbia è come un bambino piccolo che sta male, strilla, piange, ha bisogno che la mamma lo prenda in braccio. Per il tuo bambino, cioè per la tua rabbia, la mamma sei tu. Perciò respira e poi abbraccia questo sentimento con tenerezza. Non è il tuo nemico, è il tuo bimbo piccolo. Lascia che il fiore della tua rabbia si apra alla consapevolezza. Dottoressa Doria, mi sono appuntata questa frase per lei. Certo. Certa, Ecco, sì. Certa che la vedo già sorridente. Sì, esatto, eccola. Nel senso che secondo me è importantissimo, ma non perché l'ho pensato una mattina, nel senso che ci sono stati fatti moltissimi studi rispetto a questo aspetto che lei ha citato come frase del maestro buddista, nel senso che il respiro è un aspetto importantissimo su cui noi ci possiamo concentrare per riuscire a distaccarci un attimo dalla situazione che crea in noi stress. Se noi abbiamo la capacità di concentrarci sul respiro e di calmare il respiro, la mente si calma. Perché è fisiologico, è vero? È fisiologico, perché cioè, non c'è trucco, no, è proprio no, così. No, assolutamente, ecco. Non c'è trucco, e tutto questo è basato proprio su basi fisiologiche. Il respiro è, come dire, l'unione tra mente e corpo. Quando si altera il respiro è significativo che sta accadendo qualche cosa a noi. Ed è inevitabile. Cioè la modificazione del respiro implica una modificazione della mente. Quindi noi quando sentiamo che ci sale l'affanno, che ci stiamo iniziando ad accendere, dottoressa Doria, ci accompagni, ci concentriamo, sì, sul respiro. Allora, non è che bisogna essere esperti di yoga per farlo, assolutamente, né no. Pensare allora respiro con la pancia, respiro con la... Bisogna respirare, meglio se... No, con la allora, pancia, questo esatto, bisogna, ecco, specificare. Allora, noi in Occidente abbiamo quasi disimparato a respirare, no? Perché facciamo tutto di fretta, compreso respirare. Però la respirazione addominale, cosiddetta la respirazione di pancia, è importantissima per calmare la mente. Mentre la respirazione alta, quella che tutti noi abbiamo, è una respirazione invece basata sull'ansia. Quindi nel momento stesso in cui riesco ad concentrarmi, dire ok, sto respirando alto, cosa è successo? Mi concentro solo sul mio modo di respirare, provo a respirare con la pancia, automaticamente ho una situazione di calma e di benessere. Cioè va provata proprio questa sensazione, perché non è magia, non sono parole, è proprio una questione che avviene a livello fisiologico. E si può imparare la respirazione diaframmatica? Facilmente, però non facciamo danni anche se proviamo da soli a respirare, no, con la nostra pancia. Ma questa, ecco, è la base fisiologica che c'è dietro questo tipo di respirazione, perché io vado a stimolare il nervo vago, che il nervo vago è un cosiddetto nervo della calma, della tranquillità. Dottoressa Doria, molti messaggi dei nostri ascoltatori chiedono in sostanza come si può insegnare ai bambini, quindi farlo già da quando siamo piccoli, a canalizzare la rabbia. Anche i bambini che spesso si arrabbiano, noi tante volte diciamo fai capricci, ma li fanno anche quando sono adolescenti, non solamente quando sono piccoli. Possiamo suggerire questo tipo di respirazione se ci stanno a sentire? Naturalmente, esatto. Allora, ecco, perché... certo, ci sono delle per esempio delle classi che fanno molto bene per esempio yoga per gli adolescenti, no? Dove ci sono delle posture, delle posizioni che sono anche divertenti per il ragazzo adolescente, e si impara la respirazione. Quindi è possibile già da bambini, esistono anche classi di yoga per bambini, imparare questo tipo di respirazione, anche se il bambino già di suo la respirazione addominale ce l'ha, perché noi nasciamo con la respirazione addominale e poi trasformiamo la respirazione addominale in respirazione toracica, però noi nasciamo con questa capacità di respiro. Quindi possiamo farcela, sì, e possiamo insegnarla come una sorta di gioco ai nostri bambini. Sì, sì, sì, iniziamo, sì, quando sono piccoli, perché quando sono adolescenti queste proposte non è che vengono sentite, no, vero? Non, direi di no. L'adolescente è un po' più critico rispetto allo yoga, anche se secondo me invece conviene provare, perché ci sono delle asana che sono delle posture fisiche, sì, prese dagli animali, che sono difficilissimi da tenere e sono anche divertenti da costruire. Allora, io avrei avuto piacere di sentire Sara, Maria Rosaria da Milano, però il tempo non me lo permette, per cui chiediamo ai nostri ascoltatori che ci hanno chiamato ma non sono riusciti ad intervenire, perché io non ho avuto spazio per sentire i loro interventi, me ne scuso, di scriverci a cuoredenari@radio24.it. Non arrabbiatevi, ho cercato di fare il mio meglio, come si dice. Ringrazio il professor Claudio Mencacci. Grazie a voi, alla prossima. Grazie professore, la dottoressa Doria. Grazie a voi tantissimo e alla prossima. Alla sì, prossima. Vi ricordo che lunedì 8 in edicola con il Sole 24 Ore esce il quinto di questi volumi a cura della Fondazione Veronesi, dedicato proprio all'ansia, alla depressione e anche ai disturbi del sonno. Non perdetevelo, non perdetevi la puntata di lunedì. Torna Deborina, io non ci sarò, ma torneremo finalmente insieme martedì. Buon weekend.